Due. Ascolta e ripeti. Ciao Anna, bentornata. Ciao Nicoletta, grazie. Come stai? Bene, bene, grazie. E tu? Sembri in forma. Hai passato una bella settimana? Sì, sì. Michele ed io abbiamo viaggiato tanto per visitare città diverse. Tu e Michele non restate mai più di 2 giorni in una stessa città. Sì, hai ragione. Quando andiamo in vacanza, cambiamo spesso città. Poi questa volta abbiamo preso una macchina per tutta la settimana. Davvero? Ha guidato sempre Michele? Sì, ha guidato sempre lui. Io preferisco guardare il panorama. Avete visto anche la zona dei vigneti? Sì. Sono posti bellissimi, non è vero? Oh, sì, un sogno. Nicoletta, grazie per il consiglio. Abbiamo visitato anche la cantina più antica della zona. Dopo la visita della cantina, abbiamo passeggiato nel vigneto. E poi abbiamo mangiato nel ristorantino della cantina. Immagino. Quelli sono posti meravigliosi. Ho visitato quella zona un anno fa. Ho partecipato all'inaugurazione di una mostra di pittura di un artista molto giovane. I proprietari della cantina hanno organizzato la mostra perché alcune etichette dei vini sono una riproduzione delle sue opere. Sì, alla cantina hanno continuato ad organizzare questi incontri. Anche noi abbiamo visto una mostra di scultura. Ad un certo punto, lo scultore ha messo le sue opere in una grande vasca trasparente, piena di vino bianco. Non ho capito il senso, ma alcuni collezionisti hanno voluto assolutamente acquistare quelle opere. Invece noi non abbiamo fatto molti acquisti. Purtroppo a casa non abbiamo più spazio neanche per uno spillo. Ma avete scattato qualche foto?